Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, momento oggettivamente positivo questo qua per le italiane in Coppa, perché dopo l'unplay della giornata precedente, la seconda, con 3 vittorie su 3, i risultati di ieri sera sono oggettivamente quanto di meglio Inter e Napoli in questo momento potevano sperare in chiave qualificazione, e il Bate Borisov di stasera a San Siro non sembra un ostacolo troppo alto per il Milan. Questi sono gli argomenti principali dell'appuntamento di oggi, ma senza dimenticare insomma, questo annuncio arrivato ieri dal presidente della Juventus Agnelli a proposito della conclusione dell'avventura bianconera di Del Piero, ultimativa a fine stagione. Molti titolisti di quotidiani si sono sbizzarriti, dalla disdetta ad altre accezioni. Mi sembra che ne ho appena visto uno su Sky proprio pochi minuti fa, che mi sembra il più centrato di tutti, il più spiritoso, anche trattamento di fine rapporto. La parola trattamento non mi è sembrata male. E poi vi leggerò una delle tante chiavi di letture di lettura apparse sui quotidiani di oggi, in particolare questa di Roberto Perrone sul Corriere della Sera. Però cominciamo dal dopo coppe e dai protagonisti della serata, a cominciare da Pazzini, autore del gol della vittoria a Lille. Ma tutto bene, sì, è una vittoria comunque importante, che l'abbiamo portata comunque a casa, anche il secondo tempo magari soffrendo, non creando molto, però sapevamo dell'importanza della partita, quindi era importante vincere, quindi sono contento, ho fatto un gol decisivo, quindi sicuramente una buona serata. Ma sicuramente sappiamo che c'è da migliorare, da lavorare, questo lo sappiamo tutti, però con le vittorie sicuramente si lavora meglio. Avremo qualche giorno per prepararci a domenica, sicuramente vogliamo far sicuramente meglio di come stiamo facendo. Pazzini ha firmato la vittoria dell'Inter in Francia, De Santis ha firmato il pareggio del Napoli, non meno prezioso, contro il Bayern, parando un calcio di rigore. Non gli è stata necessaria una prodezza all'Andanovic, il portiere udinese, sapete che è il più grande pararigori del calcio contemporaneo, non soltanto italiano. Non è stata necessaria una prodezza perché insomma, Gomez ha calciato in maniera centrale e la finta non gli è riuscita. Ma al di là di questo, De Santis il rigore era pur sempre parato, anzi bloccato, che qualcosa in più vuol dire, ed è stato ancora una volta un protagonista di questa del suo Napoli. Lo sentiamo. Realmente sapevamo che in questo momento il Bayern Monaco, assieme al Barcellona, forse al Real Madrid, è una delle squadre più forti d'Europa. Certo che poi giocarci contro, te ne rendi conto, cioè, come si dice, no? La realtà supera l'immaginazione. La squadra fortissima, noi siamo stati molto bravi perché siamo partiti male, loro hanno tenuto praticamente nel primo tempo il possesso del gioco quasi totalmente, poi abbiamo fatto questo bellissimo spunto con Maggio, siamo riusciti a pareggiare la partita, poi abbiamo fatto la partita che era giusto fare, che dovremmo fare anche al ritorno, organizzati, equilibrati in fase difensiva, loro sono fortissimi. Abbiamo studiato e abbiamo visto che domenica l'aveva tirato a destra e abbiamo detto proviamo dall'altro lato, insomma. Però è casualità, fortuna, sono rimasto fermo, niente, va bene così. Panorama che si completa, poi naturalmente ci saranno altri commenti, ci saranno i vostri interventi, ma giusto per la completezza, no, della partecipazione Champions, sentiamo la vigilia di Allegri a proposito del Bate Borisov. Se vogliamo dire, possiamo dire che può essere la partita della ripartenza, visto che la matematica non è un'opinione, avevamo fatto solo 5 punti nelle prime 5 gare e quindi il Milan doveva fare più punti, non l'abbiamo fatti. Abbiamo tutto il tempo per riprenderci. Sabato abbiamo fatto una bella vittoria e, come ho detto prima della partita di sabato, questo per noi è un mese importante, credo fondamentale, sia per la Champions, dove ci giochiamo la qualificazione e ci giocheremo il primo posto, che per il campionato. Vi dicevo della chiave di lettura di Roberto Perrone su Corriere della Sera di stamane a proposito di Agnelli versus Del Piero. Leggo: la breve apparizione contro il Chievo, 20 minuti, salutata da ovazioni diffuse, ha fatto fiutare ad Agnelli il vento contrattista. Quindi, tra un amaro giudizio sul bilancio intollerabile e un pesante attacco alla precedente gestione da un punto di vista tecnico, il presidente ribadisce quello messo agli atti dal 5 maggio 2011. Questo è l'ultimo anno di Del Piero con la Juve. Non scopriamo nulla di nuovo, almeno per la linea societaria. La storia di Del Piero con la Juve finirà ufficialmente nel maggio 2012, ma in realtà è terminata il 5 febbraio 2011, il giorno del videomessaggio sul web del capitano, pronto a firmare il contratto in bianco. Tra virgolette, ovviamente. Andrea Agnelli non gradì il pressing, avrebbe già chiuso il rapporto nel 2011, poi la Realpolitik ha preso il sopravvento suggerendo per il popolo, per gli sponsor e per la promozione del nuovo stadio di fare arrivare Del Piero al 19° anno in maglia bianconera, ma non ci saranno celebrazioni per il ventennale. Ha impressionato chi non conosce le tappe della vicenda il tempo e il luogo dell'annuncio. Invece è stato scelto apposta con un abile gioco di prestigio camuffato l'attributo. Agnelli ha chiuso ogni spiraglio. Ecco. La ricostruzione è perfetta, che sia stato davvero abile quel gioco di prestigio usato ieri dal presidente della Juventus, questo mi pare sia stato ampiamente discusso da altre opinioni e personalmente mi pare molto ma molto discutibile. Il bilancio della serata di Coppa affidato a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Gigi, buongiorno a tutti. Senti, io ti propongo due o tre sintesi. Una è nessuna sorpresa assoluta di risultati, una serata da questo punto di vista abbastanza piatta, pur con emozioni, e una cosa rara per partite UEFA, partite di Champions, cioè le curve di Napoli, di Mosca e di Basilea piene di fumogeni che in genere non sono molto gradite in questo ambito. Sì, piene di fumogeni e lasciami dire anche da alcune inquadrature ho visto alcol all'interno dello stadio. Non vorrei che la tensione da questo punto di vista si fosse abbassata. È anche vero che ci sono piazze meno inclini al rispetto di queste direttive o diciamo posti magari più difficili di altri per dir poco, per far rispettare queste sì, cose. Da controllare. Ecco, anche la sensazione che forse sia quasi una sorta di tassa da pagare, cioè ti permetto questo per evitare di surriscaldare gli anni, però è un'osservazione corretta. Così come è corretta la prima parte, cioè serata diciamo ordinaria, all'interno di una serata ordinaria dove risultati attesi sono però maturati in maniera particolare, ad esempio sì. La gioia di Roberto Mancini che ieri sera abbiamo più volte documentato sì. E visto è forse lo specchio più evidente della tensione e del rischio che il Manchester City ha corso ieri sera. Se andiamo anche a riascoltare i commenti dei protagonisti di Napoli Bayern Monaco, tutti più o meno quelli del Napoli hanno detto bene il pareggio, molto bene il pareggio, peccato quel gol di Agüero. Quindi era abbastanza normale che il City vincesse, lo è stato un po' meno con così tanta fatica, però sì. Effettivamente il City ieri ha rischiato di non vincere anche perché in avanti ha sbagliato veramente di tutto. Ha sbagliato tanto, già non aveva tutte le frecce migliori a suo arco, perché vabbè, esatto. Tevez ormai si può anche dare per perso, insomma Agüero è entrato all'ultimo nel finale, Balotelli non c'era, quindi insomma... Sì, la squalifica di Balotelli finalmente adesso è terminata e quindi Mario ci sarà la prossima. Agüero non stava bene, non era andato neanche in panchina nella partita precedente con la Aston Villa, è stato tenuto quasi in ghiaccio per poterlo avere a disposizione e per fortuna di Mancini, perché è stata una serata la quale Dzeko non l'ha vista praticamente mai, e anche Silva e Nasri erano di luna traversa, e quindi il rischio serio era doppio, intanto era di non vincere e poi di tenere vivo il Villarreal, così il City ha fatto un'operazione doppia, di fatto ha abbastanza tolto dalle spese il Villarreal e si è rilanciato perché avendo pareggiato le altre due ha guadagnato due punti. Senti, visto che stiamo su City e quindi evidentemente Napoli in attesa poi del confronto diretto che deciderà 90 su 100 la seconda qualificata del girone, io farei un passo indietro a Napoli per parlare ai giudici di porta, perché mi sembra che questa grande novità ieri sera abbia, non dico la prima volta, ma insomma una delle primissime volte in cui fa davvero flop, perché ma al di là del giudizio su Cannavaro o meno, nel senso che si è visto benissimo, no? L'arbitro aveva giudicato, sì. Aveva giudicato in maniera innocente il colpo di gomito o di braccio di Cannavaro e invece è stato convinto a dare rigore all'altro, però che il giudice non veda in mani di Schweinsteiger nel primo tempo è inquietante. Sì, questo è clamoroso anche perché era da quella parte lì, per cui è onestamente imbarazzante. Poi si tratta di capire se invece l'abbia visto e giudicato come si può anche giudicare, cioè visto che Schweinsteiger era girato non sanzionabile con un calcio di rigore, però è chiaro che il flop, a parer mio, è nelle situazioni singole, ma anche nella giungla che ogni tanto si crea nei calci d'angolo, perché nel primo tempo Aronica e Schweinsteiger se ne sono date di cotte e di crude in un doppio calcio d'angolo, e lì alla fine ha pagato solo Schweinsteiger, e addirittura ha pagato Cannavaro per proteste, e Cannavaro sarà squalificato per questa cosa. E io credo che oltre al gol non gol sulla linea di porta, il giudice di porta dovrebbe dare qualche informazione in più sulle trattenute e su tutto quello che accade lì in mezzo. D'accordissimo, essere molto più severo su quel genere di scorrettezze. Dunque, il Real, se non ho contato male, ha segnato 12 gol nelle ultime 3 partite tra campionato e Coppa, 4 anche ieri sera. La singolarità è questa, che in questi 12 gol, nei 12 più recenti, pur essendo sempre in campo, non ha mai segnato, nemmeno ieri, Cristiano Ronaldo. E questo, ho l'impressione che dica una volta di più che questo potrebbe essere davvero l'anno del Real, perché se metti 12 pere in 3 partite e non partecipa Cristiano Ronaldo, beh, vuol dire che la squadra c'è davvero. No, non partecipa, oddio, sul gol di Benzema ha partecipato quasi. Non firma, ho detto non male, firma. Non firma. Esatto. No, però ad esempio anche negli altri ci sono anche alcune situazioni nelle quali non è suo nemmeno l'assist. Sì. Molto bene, lettura perfetta anche secondo me, nel senso che Cristiano Ronaldo nel bene e nel male caratterizzava tutte le stagioni e del Real Madrid, e ci sono state alcune partite, specie nel doppio confronto col Barcellona, nel quale Cristiano Ronaldo c'è stato poco. Diciamo che il Barcellona gli aveva trovato le misure. Siccome tanto sappiamo bene che la stagione per il Real Madrid si deciderà in 3-4 partite, che saranno le, diciamo, semifinali di Champions e il doppio classico in Spagna, è una eccellente notizia. Ho anche il sospetto che ci sia, cioè che non sia una cosa casuale, cioè che José Mourinho, conscio, evidentemente conscio di una potenza di fuoco mostruosa, abbia voluto anche un po' diversificare il tipo di attacco, diciamo così, ha messo un po' di fanteria, un po' di artiglieria, un po' di cavalleria, e questa è una grande notizia per lui. Io onestamente penso che quest'anno il Real Madrid porterà a casa molti titoli, visto che parlavamo di Mourinho. Ho la sensazione anch'io, tra l'altro, insomma, poter alternare, no, con, nel ruolo di punta, poi primo o secondo non ha molta importanza, perché con Cristiano Ronaldo è difficile stabilire chi, quando c'è lui di mezzo, è difficile stabilire alternativamente chi fa la prima e la seconda. Ma insomma, poter alternare Higuain e Benzema, credo che nessuna squadra al mondo possa avere un'alternativa di questo livello, no? Perché no, stiamo parlando di eccellenza assoluta. Solo il Barcellona sta qualitativamente, il Barcellona resta una squadra più organizzata, resta una squadra con che ha che ha alternative eccelse, impensabili per tutti gli altri a metà campo, secondo me. Ma davanti poter disporre di Ronaldo da una parte e poi a scelta tua Higuaín o Benzema, sempre con Kaká di scorta, beh, insomma, no, anche secondo me è preferibile, e anche per una seconda ragione, che il Barcellona seppur ha una dimensione straordinaria e inarrivabile, ha sempre quella, e José Mourinho una volta li ha fermati con l'Inter, e poi non c'è riuscito con il Real Madrid. Penso onestamente che sulla scorta dell'esperienza dell'anno passato il Real Madrid certi errori non li commetterà più, cioè non andrà più in campo solo per rompere o più volgarmente per menare, come ha fatto con Pepe l'anno scorso, ma se la giocherà in maniera diversa, e credo che questa volta possa essere vincente. Però insomma, siamo andati già alla primavera, saranno i primi grigiori autunnali che ci hanno fatto venire voglia di primavera. Sì. Questa è tutta roba per febbraio-marzo. Torniamo quindi in chiusura, torniamo a mercoledì 19 ottobre e a una panoramica su stasera che vada oltre Milan batte Borisov. Beh, diciamo che il Chelsea ad esempio può mettere una, non la parola fine sulla qualificazione, ma con il Genk, sfruttando anche la sfida l'altra sfida, secondo me potrebbe essere la serata del Chelsea, tenendo conto appunto che Bayer Leverkusen e Valencia si affrontano. La partita più interessante della serata secondo me è Marsiglia, la partita tra l'Arsenal e il Marsiglia, anche se poi queste due alla fine si qualificheranno. E allora è curioso, sono anche molto curioso di vedere se il Borussia Dortmund, e questo interessa anche poi a livello di ranking, se il Borussia Dortmund riuscirà a scuotersi, perché il Borussia ha fatto un punto in due partite, parliamo dei campioni di Germania. Sì. Non moltissimo, direi quasi niente nel girone del Milan, se non il fatto che giochino comunque Milan e Barcellona, ma quello è un girone onestamente segnatissimo, e vediamo che forse sulla carta potrebbe essere il girone, un girone molto equilibrato, che è il girone dello Zenit San Pietroburgo e del Porto, perché lì c'è la Poel in vetta, insomma, la Poel se esce vivo anche dalla partita col Porto, potrebbe essere la vera grande sorpresa degli ottavi di finale, perché non c'è mai stata una squadra così piccola negli ottavi di finale. Lo vediamo stasera, grazie Fabio. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Sì, tra l'altro poi questa possibilità per il Borussia di ripartire stasera e di cominciare una rimonta è subordinata alla gravità di questi incidenti che sono in corso ad Atene, di cui vi stanno informando tempestivamente i nostri notiziari, perché Olympiacos Borussia a questo punto potrebbe anche essere a rischio di effettuazione. Che ne pensa del Bayern? Non è una delle più forti squadre al mondo? Domanda Luca da Genova blu cerchiata, specifica tra parentesi. Beh, in questo momento certamente sì, grande squadra impressionante per la facilità con cui gioca facile, gioca semplice, non cerca mai nulla di complicato e nemmeno di particolarmente geniale, non avendo Robben. Quello che manca, allora grande squadra, ripeto, manca un po' il cambio di marcia, mi pare. Senza Robben, l'unico che verticalizza sul serio è Müller ogni tanto, perché anche Ribéry mi sembra che stia diventando uno che, per carità, gran giocatore, ma prende sempre magari un po' la tangenziale anziché puntare alla via diritta. Non hanno il cambio di passo, ma come potenza e come occupazione del campo sono le Sturmtruppen nella loro versione migliore. Fabio in linea da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Vorrei intervenire riallacciandomi al discorso iniziale di Del Piero e la società. Sì, un po' un commento, diciamo, dolce amaro, nel senso che è il mio, intendo, nel senso che ormai un po' è il calcio delle società, delle SPA, un po' la mia impressione. Del Piero, io sono un tifoso juventino, premetto, è secondo me un simbolo, è stato un grandissimo giocatore, è forse anche ancora un grandissimo giocatore, e dal mio punto di vista forse sarebbe stato meglio anche come tifoso che fosse stato lo stesso Del Piero a dire l'addio, ecco, non tanto un comunicato societario. Poi dopo chiaramente, insomma, Del Piero non è eterno. No, Fabio, certo, ma al di là del fatto sì che sarebbe stato meglio, soprattutto è la scelta di tempo che non si riesce a capire, perché siamo a ottobre, nemmeno a fine ottobre, e allora visto che Del Piero o qualcuno vuole, non so come dire, sollecitarne un'eventuale dipartita prematura già al mercato di gennaio, oppure insomma, è vero che quella di ieri è un'assemblea degli azionisti e quindi era un'occasione per comunicare come il Presidente ha spiegato, però è anche vero che nella comunicazione di oggi non sono le occasioni a mancare, no? Quindi una disdetta, anzi un preannuncio di trattamento di fine rapporto, come si è detto prima, anticipato di mesi, di così tanti mesi, insomma, come minimo non è elegante, ecco. Anzi direi che è leggermente arrogante. Poi evidentemente questo nasce come da lettura, per esempio, del Corriere della Sera che vi ho fatto prima, nasce evidentemente da rapporti non felicissimi che risalgono allo scorso anno e a quel genere di precedenti. Imperdibile questo messaggio firmato Mario, arriva da Pescara. Lo si sapeva dalla firma del contratto che sarebbe stato l'ultimo anno del capitano. Le vostre sono stucchevoli, orientate polemiche, parlate di calcio, lei è diventato il Biscardi della radio, ma cosa le è successo? Le spiego io subito cosa è successo, Mario, che sono d'accordo con Moggi, per una volta nella vita, o una delle non tantissime volte nella vita, sono d'accordissimo con Luciano Moggi. Ho letto un suo commento sui quotidiani di stamani, dice non si poteva scegliere un momento peggiore per un autogol così clamoroso. Certo che si sapeva dalla firma del contratto che sarebbe stato l'ultimo anno di Del Piero, e che bisogno c'è di rammentarlo a quella maniera e con quella forma, no? Così vendicativa, perché è chiaro che è una vendetta rispetto al messaggio peraltro infelice sul web del capitano lo scorso anno. Che bisogno c'era adesso, cioè da qui a maggio non c'era modo di ricordarlo, secondo lei? Giuseppe ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno dottor Granzini e complimenti vivissimi, è sempre un piacere ascoltarla. Io volevo chiedere la sua opinione su un fatto. Io leggo molto, seguo sport, soprattutto il calcio, ho la fortuna di guardare i campionati esteri, soprattutto inglesi, tedeschi e francesi, e vedo gli stadi sempre completamente pieni, ma proprio pieni, eh? E io non riesco a trovare mai nessuno che in Italia si chieda come mai gli stadi invece da noi sono vuoti. Mi ha fatto specie vedere il derby di Roma, anche a me, il derby di Roma, con uno stadio mezzo vuoto. Sì. Mi ha fatto specie vedere l'Udinese quando è uscita in Champions League, purtroppo, con tanti spazi vuoti. 12.000 persone per Inter Trabzonspor Sport, 23.000 persone per Milan Lazio. Allora, cioè, secondo me questo è un problema estremamente grave. Io è estremamente grave, Giuseppe. Che io condivido in pieno la sua riflessione. Quello che non condivido molto è quando lei ha premesso che o non ne sente parlare o non. Oppure non, insomma, che è un argomento sottovalutato dall'opinione pubblica, non mi pare proprio. Qui certamente meno ancora, è sottovalutato dalle società. Perché è sottovalutato dalle società? Perché ormai gli incassi da stadio non rappresentano che una voce molto marginale rispetto agli incassi da TV, per cui, dato che gli amministratori di società, si fa per dire, in molti casi sono sazi, no, di quattrini dalla pay TV, l'importante è che funzioni e renda lo spettacolo televisivo. Se poi quello da stadio si è perso nella notte dei tempi o comunque è diventato marginale, amen, loro hanno ugualmente di che campare più o meno bene in soldoni e forse anche in maniera un po' volgarotta, però la sostanza è questa. Luciano, Napoli, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare del caso del Piero. Volevo dire che io sono un tifosissimo juventino e voglio dire che praticamente sono d'accordissimo con il presidente, benché forse il modo un po' sbagliato, e mi è sembrato un po' come chiave di lettura un messaggio anche per Conte, che perché la società ha investito più di 30 milioni in Quagliarella e Madri, e questi lo stanno giocando, diciamo, perché Del Piero comunque ha una presenza, diciamo, incombente, ingombrante, e quindi io l'ho visto diciamo come una sorta di messaggio per dire è l'ultimo anno, cerchiamo di valorizzare, diciamo, i nostri investimenti. Ma non lo e so, l'ultima cosa volevo parlare, quando sento di Santis del Napoli e penso al suo mister, mi viene di dire che sono due persone, diciamo, che agli antipodi. Luciano, ascolti, Luciano, abbia pazienza. Secondo lei Agnelli e Conte non si parlano? Cioè non c'era un modo, come dire, meno pubblico, meno plateale, anche se vogliamo, seguendo il suo ragionamento, che credo non abbia questo grande fondamento, non c'era un modo tra di loro per dirsi: ma guarda che secondo me Matri e Quagliarella, per carità, l'allenatore sei tu o l'allenatore è lei, non so quali siano i rapporti da un punto di vista formale, c'è bisogno di notificarlo all'assemblea degli azionisti? So io, credo che esistano forme di comunicazione, non dico più raffinate, ma insomma anche basicamente più felici. Certo che sono belle queste due storie a pagina 27 della Gazzetta di oggi. Nella parte alta c'è Simoni, soprannominato Nonno Gigi, che rientra col Gubbio. Perché? Perché dopo il licenziamento di Pecchia la società ha deciso che temporaneamente almeno la panchina viene affidata al direttore tecnico, dato che il direttore tecnico del Gubbio, come gli ascoltatori più fedeli dovrebbero ricordare, perché ci abbiamo fatto una bella e ricca conversazione un paio di settimane fa, dato che è per l'appunto Gigi Simoni, lo hanno precettato per guidare in panchina almeno una partita in attesa di trovare poi una soluzione definitiva. E quindi torna in panchina dopo 6 anni Gigi Simoni lunedì sera nel posticipo contro, contro il Torino. Il suo commento è: ho deciso di fare una follia. Insomma, la sensazione è che non abbia nemmeno tanto deciso lui, ma insomma che gliel'abbiano chiesto in maniera così appassionata che non... Da persona in fondo generosa com'è, non ha sentito il modo di tirarsi indietro. Nonno Gigi lo chiama la Gazzetta, io anche per via di Gubbio preferisco chiamarlo Don Matteo perché mi sembra più pertinente. E invece nella parte bassa c'è la storia incredibile della Triestina e di questi due nuovi proprietari che si sono presentati 2 mesi fa a Trieste ed erano una coppia. Sergio Aletti anni 52, Cristina De Angelis anni 40, una coppia non di fatto, una coppia che sì, o forse di fatto, diciamo che erano, che avevano un rapporto tra loro che andava al di là della passione per la Triestina, anche perché questa era abbastanza di nuovo conio. E da allora, insomma, è successo e sta continuando a succedere veramente di tutto. Stanno volando stracci di ogni genere, di ogni natura, tra denunce reciproche e accuse folli. Chi ha avuto l'avventura una coppia di fatti, mi suggeriscono dalla regia, la coppia di fatti mi sembra un po' eccessiva, però non potevo non leggerla. Chi ha avuto l'avventura di assistere di persona la scorsa settimana a un'assemblea della Triestina in cui c'era lui e non lei perché non era stata fatta entrare, e ha sentito la ricostruzione di questo periodo vista da parte di lui, con qualche accenno anche, come dire, alle ragioni per cui nel frattempo lui e lei non sono più una coppia, per via di esperienze triestine in questo periodo, credo che quell'audio, che però non c'era perché era un'assemblea di azionisti, non come quella della Juve, varrebbe, insomma, qualcosina potrebbe valere dal punto di vista dell'ascolto. Luca ha chiamato dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno a lei, io sono un tifoso della Juventus e quindi non potendo intervenire in merito alla Champions League perché insomma, ahimè, non la disputiamo, quindi vorrei anch'io dilungarmi su Del Piero e su Agnelli. Anch'io penso che nella relazione di ieri Agnelli sia stato un po' improvvido in alcune sue uscite. La critica troppo diretta rispetto alla gestione degli anni precedenti, quelle che ha poi portato a maturare quel deficit di bilancio, mi è sembrata anche questa un po' ingenerosa, perché non teneva conto della retrocessione in primo luogo e poi delle sue conseguenze. E mi sembra anche fuori luogo l'uscita nei confronti di Del Piero. Sarebbe stato molto più elegante, per non dire altro, che una decisione del genere fosse stata annunciata congiuntamente, nel caso da Agnelli e da Del Piero, insomma. Ascolto i suoi commenti. No, gliene leggo un altro invece, perché ne stanno arrivando davvero tanti. Gliene leggo un altro di un ascoltatore che dice: secondo il mio parere il signor Agnelli ha fatto l'annuncio su Del Piero in piena buona fede ed è per questo che continua a essere preoccupato sul futuro della Juventus. Pierluigi, provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno dottor Grazini, mi ha bruciato quello che volevo dire leggendo questa mail. Io credo che il dottor Agnelli sia giovane e faccia quelle che in gergo si chiamano cappelle nella comunicazione, quindi sbaglia quando aizza tra virgolette le folle ritirando fuori gli scudetti 2006, quelle cose sono da risolvere senza tirarle fuori, senza alzare polveroni, da risolverle in separata sede. Quindi secondo me sono cappelle, non vedo la dietrologia che leggeva lei, ma io sono ingenuo, infatti tifo Cagliari e le volevo chiedere se il mio Cagliari, secondo lei, del vituperato Cellino, in realtà non sia una squadra che ha solide basi, so che non interesserà a nessuno l'argomento, non ha comunque degli ottimi giocatori che si confermano secondo me da diverse stagioni, non, perché ogni allenatore che è venuto ha fatto bene, non sarà una coincidenza, vuol dire che il gruppo è buono secondo me. Ma le grandi non guardino anche questo, direi proprio di sì, però senza farsi troppe illusioni di quest'anno, perché il Cagliari quest'anno è partito troppo bene nel senso di punteggi, di punti, classifica e cosa, e non mi pare abbia più le risorse in zona gol che aveva negli anni scorsi, penso a Matri, ma penso anche ad altri prima di lui, quindi ci andrei piano con le illusioni, perché il Cagliari attualmente è addirittura secondo in classifica, ripeto, ha fatto una grande partenza, ma la classifica è molto corta, e quindi se una squadra che parte come sempre per salvarsi, all'inizio non vive come un'avventura piacevole, un'impennata improvvisa, ma la proietta pensando magari o illudendosi, poi rischia risvegli negativi. Triestina, ancora Triestina, perché questo è, ma l'avevo già annunciato ieri, è uno dei più bei ricordi, credo, della storia della Triestina, e dato anche il presente non particolarmente allegro, risale addirittura al 1947, la migliore annata, quella storica, con Rocco in panchina, della Triestina, ed è l'oggetto della Marcord di oggi di Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 ottobre 1947, sesta giornata di campionato. La Triestina, guidata da un Nereo Rocco alla prima stagione in panchina, sbanca a sorpresa il campo della Juventus, imponendosi per 1-0 con rete di Mario Begni, che al 25esimo beffa sentimenti quarto. I bianconeri, allenati dall'oriundo Renato Cesarini, hanno un'occasione preziosa per pareggiare a inizio ripresa, con un calcio di rigore che però il cecoslovacco Jan Alpas fallisce. L'esploa della Triestina non rimarrà un fatto isolato. La formazione alabardata chiuderà il torneo con un incredibile secondo posto, a pari merito con la stessa Juve e il Milan, e 16 lunghezze dietro l'inarrivabile Grande Torino. Mi aggiunge Nicola Filippone nelle note a margine che oggi avrebbe, perché è morto da anni purtroppo, avrebbe compiuto 90 anni Gunnar Nordahl, 19 ottobre 1921, uno dei mostri del ruolo di centravanti degli anni 50, diciamo pure del secondo dopoguerra. Giorgio ha chiamato la provincia di Gorizia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ascoltavo la trasmissione, l'ho sentita fare un commento un po' ironico, forse è sembrato a me, mi sto sbagliando, sugli ultimi anni del ciclo vincente dell'Inter in Italia. Sugli ultimi anni del ciclo vincente? Ah no, Gorizia, mi scusi, pensavo ce l'avesse con la Triestina. Sì, quelli erano ironici. No. E invece no, cos'era? Su? Pronto? Sì, dica. Sì, non so, è sparso a me oppure ha fatto un commento un po' ironico, come se ci fossero dei meriti extrasportivi o qualcosa del genere. Riguardo che cosa, mi scusi? Riguardo i campionati vinti dall'Inter negli ultimi anni. Ma insomma, si parlava di ciclo vincente in Europa, in Italia, non so, mi è sembrato, mi spieghi se mi sono sbagliato io. Ma secondo me si è sbagliato lei, dopodiché insomma, io ricordo comunque uno di questi scudetti a tavolino, no? E ho sempre sostenuto che andava rifiutato, non solo per eleganza ma anche per una serie di fattori, e non tornerei su queste cose né in un senso né nell'altro. Il successivo era uno scudetto depauperato dalla mancata presenza della Juventus e dal fatto che il Milan e altre fossero penalizzate, quindi in questo senso ho detto che questo oggettivamente grande ciclo dell'Inter si è però giovato soprattutto nella fase iniziale di insomma, aspetti curiosi, di aspetti agevolati. Le sembra ironia questa? Mi è sembrato un po' fuori luogo comunque, perché sì, è una ricostruzione nei confronti di questa squadra, ecco, diminuirne i meriti. Ma qui non c'entra nella diminuzione. È un'opinione, benissimo, insomma, è un'opinione, però non mi dica che c'è ironia in questa. È una ricostruzione storica, a parer mio. Poi come sempre le ricostruzioni storiche, e non solo quelle, possono essere condivise o meno, però non mi sembrava, cioè, nulla di ironico. Andrea, Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Sì. Volevo un chiarimento, e perdonate l'ignoranza, nel senso, perché durante, per quanto riguarda gli arbitri sto parlando, perché durante le partite o il post partite non si intervista mai l'arbitro, così che possa giustificare in prima persona magari qualche errore o una svista, qualsiasi cosa? Non vedo che non viene mai fatto, ripeto, perdonate l'ignoranza, ma non capisco come mai. No? Perché gli arbitri non hanno diritto di parola, cioè l'arbitro non può essere intervistato, nel senso che non è un soggetto intervistabile per antica consuetudine / regolamento, per una legge non scritta del calcio, ma insomma, comunque, se uno vuol parlare con un arbitro, l'arbitro deve essere autorizzato dall'AIA, cioè dai suoi superiori. I suoi superiori non autorizzano alcun genere di intervista ad arbitri né a caldo né a freddo. Questa è la molto semplice ragione per cui. Dunque, ecco, questa è una voce che potremmo ascoltare, quella di Claudio Gentile, perché insomma, gli avvenimenti, tutto quello che accade, è accaduto, accadrà in Libia è lungi dall'essere terminato, dall'essere concluso, però di sicuro c'è il fatto che dalla Libia, come già era accaduto tempo fa, dalla Libia vorrebbero che Claudio Gentile diventasse il loro commissario tecnico, visto che lì è nato a Tripoli Gentile. E allora sentiamo come Claudio Gentile ha accolto questa proposta, che per il momento è una proposta ancora eventuale. Finché non ci sarà, diciamo, questa garanzia che Gheddafi non è più al potere, allora si potranno fare le cose, altrimenti non accetterei questo ruolo senza sapere, insomma, dove andare a cadere, ecco. Devo dire che tramite dei politici di italiani che hanno avuto questi incontri con questo governo provvisorio, so che hanno parlato anche di questa cosa e quindi, però adesso bisogna vedere come andrà a finire, cosa succederà, Gheddafi se lo prenderanno o meno. Damiano ha chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, due flash velocissimi. Il primo, mi sembra di capire che i temi caldi di questi inizio settimana sono i pochi gol segnati in Serie A e l'addio di Del Piero a fine stagione alla Juventus. Ora, siccome si dice che gli attaccanti sono scarsi, mi auguro che Del Piero possa trovare spazio in un'altra squadra che non sia la Juve. Mi viene quasi da tifare Padova perché salga in Serie A e Del Piero possa chiudere la sua carriera nella squadra che l'ha cresciuto, un po' come magari fecero Signori a Bologna, piuttosto che Baggio alla stessa Bologna o Brescia, insomma. Beh, non è una brutta suggestione questa, in effetti. E la seconda cosa, se posso, lei l'ha già ricordato, volevo salutare Simoni, che ritorna in panchina dopo tanti anni. Per noi interisti, quel "si vergogni" che disse a Ceccarini è stato un punto molto, un pomeriggio molto triste, ma anche una grossissima lezione di educazione, ma anche un mantra. Sì, lo so che per il pubblico, certo. Sì, insomma, bisognerebbe imparare un pochettino da queste persone ogni tanto, insomma. Sì, non solo per quella frase, direi che c'è tanto altro nella carriera e nell'educazione di Gigi Simoni. C'è tanto altro oltre a quello, indubbiamente, che rimane a sua volta una cosa, un episodio storico. Federico d'Alessandria risponde indirettamente all'ascoltatore interista di prima, da Gorizia, che non aveva gradito questa ricostruzione del ciclo, dicendo che una volta Mourinho disse testualmente, una volta che si arrabbiò con l'Inter, disse testualmente: uno scudetto l'avete vinto in segreteria, uno contro nessuno e uno all'ultima giornata, grazie anche a errori di arbitri, Roma, eccetera. Io quest'ultima parte, sinceramente, caro Federico, non la ricordo, ma lo scudetto di segreteria e uno contro nessuno li ricordo bene anch'io, ed è una un allegato che mi porterei nel caso quelle frasi di prima mi dovessero costare un vilipendio, cosa che su cui ovviamente sto scherzando. L'ultimo interlocutore di oggi è Alessandro, dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica. Tre cose iperrapide. Allora, la prima, io da tifoso interista sono d'accordo con te. Io quello scudetto del 2006 l'avrei proprio rifiutato, secondo me avrebbe contribuito molto a stemperare gli animi. E poi le vittorie sono belle sul momento, sul campo, dopo anni, sapere che hai vinto uno scudetto a tavolino 5 anni fa, non meno fa né caldo né freddo. La seconda cosa è, io le consiglierei di querelare quello che l'ha paragonato a Biscardi. La terza cosa, rapidissima, io non credo che il calcio italiano sia, come livello medio, molto inferiore a quello dei campionati top d'Europa. È che noi non abbiamo più le eccellenze, la nostra prima squadra non è molto meno forte della prima inglese o della prima spagnola, ma sono convinto che la nostra quarta, quinta, sesta sono uguali o anche più forti della quarta, quinta, sesta spagnola, inglese. Non credo, Alessandro, però è un confronto che si può fare. Quando li abbiamo fatti indirettamente e direttamente negli ultimi anni, non c'è andata benissimo, parlo anche di confronti di coppe eccetera, quest'anno prima o poi riaccadrà di doverli o poterli fare, e quindi lo verificheremo. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanini in redazione, buon pomeriggio.